È un bel problema, È un bel problema quello delle vignette antislamiche pubblicate da quel quotidiano danese e di tutto il casino che ne è venuto fuori. È un bel problema perché rappresenta, o sembra rappresentare, un caso insanabile di contrapposizione tra due sistemi di valore che meriterebbero entrambi di essere tutelati. Perché è giusto, figuriamoci, che la gente non venga offesa nelle proprie convinzioni religiose, specie se ci ha fatto degli investimenti ideologici considerevoli, ma ciò non toglie che sia altrettanto giusto criticare con ogni strumento disponibile, satira e vignette incluse, ogni persona o idea che per un motivo qualsiasi si abbia intenzione di criticare. Il diritto a essere rispettati è tra i fondamenti della convivenza civile, ma la libertà di pensiero ed espressione anche, quando le relative istanze vengono per così dire alle mani, non si sa mai bene come reagire. In realtà i due corni del dilemma sono meno antitetici di quanto a prima vista non paia e vi si può conciliare benissimo. Bisogna solo vedere come. Non si può ricorrere, per esempio, ai due argomenti su cui più frequentemente in questi giorni hanno insistito i commentatori responsabili e quasi tutti i politici di un certo peso, da Kofi Annan in giù. Si sono affrettati costoro, ricorderete, a rispolverare la nota teoria del c'è modo e modo, detta anche dei limiti da rispettare, no? Spiegando che la libertà di critica è sacra, non ci piove, ma oltre un certo punto non ci si può spingere, e per cui, come scrive per tutti Piero Ottone sulla Repubblica del 3, parlar male del Papa si può anche, con certe cautele, ma scherzare su Gesù Cristo in croce, giammai. Che, a pensarci, è un discorso un po' a pera, non solo perché ogni volta che si sente qualcuno discettare sulla differenza tra libertà e arbitrio e cose del genere si può essere matematicamente sicuri che in nome di quella differenza lui è pronto a vietarci praticamente di tutto, ma perché quando si tirano in ballo i limiti bisogna anche precisare chi li stabilisce e secondo quali criteri, con il che ci si ritrova inesorabilmente al punto di partenza. E non ci si può neanche salvare considerando la satira narrata, disegnata, recitata, non importa, come una categoria a sé, dalla quale esula qualsiasi componente offensiva. Una specie di piacevole esercizio dialettico esaurito al quale autore e destinatario si scambiano delle manate sulle spalle e vanno insieme a festeggiare all'osteria. E sono queste notoriamente balle. Orazio, che un po' se ne intendeva, fa risalire la satira agli autori della commedia antica, sapete, Eupolis atque Cratinus, Aristofanesque poete, e quando Aristofane raffigurava Socrate come un pericoloso imbroglione o dipingeva Cleone come un noto ladro, non parlava così per dire, tanto è vero che i soggetti in questione si incazzavano di brutto e nei limiti delle loro possibilità reagivano ciascuno come poteva. Io personalmente ho sempre pensato che la scena finale del simposio è quella in cui Socrate e Aristofane discutono piacevolmente tra di loro di teoria teatrale, sia un tipico esempio di riconciliazione postuma introdotta da Platone per ragioni affatto personali e senza alcuna attinenza alla realtà dei fatti. E non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. La satira per definizione è un'attività offensiva e aggressiva. Chi la pratica auspica sempre che al destinatario saltino le coronarie dalla rabbia. È una pratica che i miti possono deplorare, ma queste e non altre sono le sue regole. E comunque dalla sua un paio di elementi che la possono giustificare anche agli occhi di chi come me rifugge dall'aggressività in genere. Intanto funziona solo quando prende di mira i potenti di questa terra. Gesù Cristo non c'entra e Maometto neanche. Loro sono al di sopra di queste bassure, ad attaccarli ci sarebbe pochissimo sugo, al massimo li può invocare per attaccare qualcun altro. Come fa Gesù e Carducci, per citare un esempio non particolarmente alla moda. Giosuè Carducci nel Giambo per Edoardo Corazzini, quando descrive il Papa felicemente regnante mentre ha letto sogna d'armi e ad un selvaggio agguato pare che i frema e rugga e sul capo gli penzola inchiodato Gesù perché non fugga, dei versi che a suo tempo hanno irritato moltissimi clericali, ma lui, poveretto, intendeva attaccare Pio IX, aveva degli ottimi motivi per farlo, sarebbe ipocrita, improprio accusarlo di offesa alla religione. Il riferimento al crocifisso inchiodato perché non fugga, che il poeta, se non erro, prendeva presto da Victor Hugo, ha una sua evidente efficacia sul piano della dimistificazione, e se ci aggiunge un pochino di effetto shock, beh, poco male tutto sommato. E che ci porta peraltro alla seconda considerazione che potrebbe rendere il discorso a questa tecnica per offendere gli altri accettabile e a volte persino necessario. E la satira non è soltanto caricatura. Funziona quando morde, quando mette in rilievo qualche grossa contraddizione che il destinatario avrebbe tutto l'interesse a tenere celata. Un papa che sogna d'armi, che fuori dall'immagine poetica ricorre alle armi per difendere il potere temporale, ha ben poco a che fare con la mite figura del Cristo in croce. Un capo di governo che ritrae dall'esercizio della sua funzione immunità giudiziaria e illeciti arricchimenti personali, e mi riferisco a Cleone, non fatevi venire in mente degli altri nomi, non è degno del suo mandato. Magari a sentirselo ricordare in pubblico si arrabbierà, ma questo farà supporre in più che l'attacco aveva colto nel vivo e che qualcosa di vero poteva anche esserci. Se Socrate avesse accusato Cleone di monopolizzare i sistemi di comunicazione di massa, tanto per fare un esempio a caso, non l'avrebbe assolutamente turbato, anche a prescindere dal fatto che sistemi di quel tipo ai suoi tempi non ce n'erano. Se qualche anima pia, no, qualche anima ria, non pia, accusasse me di essere divorziato e difendere ciononostante la dottrina matrimoniale della Chiesa, reagirei con straordinaria serenità perché divorziato non sono e quella dottrina non la difendo. Altri, magari, potrebbero seccarsi di più. Così si può supporre che il devoto musulmano che si irrita per una vignetta in cui il suo profeta accoglie in paradiso un certo numero di martiri della fede dicendo basta basta abbiamo finito le vergini, lo faccia soprattutto perché dentro di sé si rende conto di come l'ipotesi di quel tipo di gratificazione post mortem, se presa alla lettera, infici un po' la credibilità della sua teologia. E certo, chi aggredisce e offende gli altri deve tener conto delle conseguenze. Se attacca la democrazia, deve saper prevedere che i reazionari che avrà contribuito a portare al governo potranno come primo provvedimento togliergli la libertà di fare il suo mestiere, come successe all'ingrosso ad Aristofane. E se attacca dei violenti, può aspettarsi qualche ritorsione violenta, dalla quale peraltro le autorità hanno il dovere di proteggerlo, come hanno quello di tutelare la sua libertà d'espressione. Sulla logica di chi da quelle autorità pretende A delle scuse e B l'impegno a far sì che l'episodio non si ripeta, cioè una qualche forma di intervento censorio, su quella logica non è neanche il caso di soffermarsi. E anche su quella di chi per debolezza, paura o innata tendenza a quieto vivere accetta quelle pretese non c'è da dire granché. E sono forme di servilismo che allineano spesso in chi pretende negli altri un comportamento servile. Ma tutto questo con le offese alla religione non ha molto a che fare. Con le offese a chi della religione si serve per i fini suoi, sì. Ma questo di grazia che cosa c'entra?